140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Excelsior, Venezia. Tanti auguri a Bruno Bozzetto. Un compleanno per una vita di disegni e cartoni, da West End Soda al signor Rossi. La mia passione verso il cinema nasce inizialmente addirittura per il dal vero, ma essenzialmente è il piacere di comunicare qualcosa. Cioè io ero una persona, grazie a mio padre che mi ha insegnato a ragionare in una certa maniera, molto critico, cioè quando vedevo qualcosa che non funzionava vedevo subito il lato critico e contemporaneamente quello ironico. Quindi mi piaceva trasmettere queste sensazioni. Non avendo studiato disegno ero bloccato, cioè Disney mi bloccava. Come facevo a pensare di fare un film con personaggi come Bambi, Paperino, Dumbo, Pinocchio? Era impossibile. E poi era troppo realistico. E a un certo punto ho scoperto un certo National Film Board in Canada. Per caso mi è capitato in mano un film e ho visto che queste persone con dei disegni semplicissimi parlavano di cose interessanti, parlavano della nascita degli sport legati ai mezzi di trasporto, in un altro meraviglioso di Walt Disney che si chiamava La storia della musica, parlavano della nascita degli strumenti musicali nella storia. E visto che io ero ancora al liceo in quel periodo, finivo il liceo, e ero molto, diciamo, pieno di informazioni storiche sui popoli, sull'evoluzione, eccetera, eccetera, sentivo il bisogno di raccontare qualcosa anch'io. E ho fatto Tapun, la storia delle armi. E l'ho fatto perché questi film mi hanno dato la convinzione che si potesse fare un film anche con personaggi semplici. E ho detto, se lo fanno loro posso farlo anch'io. E ho tentato. L'ho girato sull'asse da stiro di mia mamma, modificato da mio padre, e tutti mi dicevano, impossibile fare un film in queste condizioni, e io l'ho fatto lo stesso. E lì già da quello nasce il concetto che quando uno è convinto di qualcosa, quando ci crede, qualcosa ottiene. E naturalmente i miei compagni di scuola mi vedevano fino a mezzanotte fotografare questi disegni e dicevano, ma perché non viene al cinema con noi? Perché non viene alla festa con noi? E io stavo a casa. E questo evidentemente mi ha aiutato. Io sono convinto che la fortuna sia il numero uno nella vita di una persona, però bisogna aiutarla. Cioè io, facendo tante cose, ho aiutato la fortuna ad accelerare i tempi. Probabilmente avrei fatto lo stesso mestiere, ma magari avrei impiegato molto più anni. Poi ho avuto tanti di quei colpi di fortuna che sono incredibili. Beh, diciamo che non è stata solo fortuna. Lei ha parlato di Disney dicendo, io come guardavo Disney dicevo, come avrei potuto fare qualcosa del genere. Eppure la figlia di Walt Disney ha riconosciuto lei come un maestro a quel livello. Anche questo mi ha stupito in una maniera. Lei è sempre stupito. Io sono sempre stupito, cioè non, veramente non capisco quando qualcuno anche mi riconosce. Mi viene da ridere, non ci credo. Dico, ma perché? Cioè, c'è tanta gente che fa delle cose meravigliose. Perché io? Non lo so. Quando ho fatto West End Soda, io sono stato per una settimana fuori dal cinema a controllare che la gente entrasse. Non ci credevo. Non è possibile che uno paghi un biglietto per vedere una cosa fatta da noi che ci stavamo divertendo. Ed è successo. E quindi forse la vita è anche questa, è credere alle cose perché si lavora duramente per ottenerle e non credere poi che la gente venga dietro a noi. Cioè è proprio, sono i fatti che devono convincerci che è così, ma sono, beh, mi definiscono pessimista comunque, quindi forse è la mia particolarità. Pochi istanti fa ho visto una lucertolina passare e lei riesce a cogliere il bello e le idee dappertutto. Noi siamo in mezzo al bello, è il fatto di vederlo, ma più che altro di avere il tempo di vederlo. Oggi la vita ci porta via la cosa più importante ed è il tempo. Oggi con i telefonini e con quello che succede bruciano tutto, cioè non ci sono mai attimi di pausa, invece sono le pause quelle che permettono di crescere, di vedere, di osservare.